24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 19 minuti e 25 secondi di questo giovedì 9 luglio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati. Questa è la terza parte di 24 Mattino. Al microfono sempre Simone Spezia, Maria Latella. Ciao, buongiorno Maria. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. E prima di darvi un rapido flash sulla prima pagina di un quotidiano inglese, vorrei però stare sulle pagine di cronaca dei quotidiani italiani. Segnalo il pezzo sul Messaggero, ma anche la pagina, perché il Corriere della Sera ha dedicato un'intera pagina a un caso che merita tutta la nostra attenzione: la morte di due ragazzini di 16 e 15 anni, Flavio e Gianluca, uccisi a Terni da quella che è considerata, viene definita, cito appunto l'articolo di Rinaldo Frignani, la droga dei trapper, un mix di codeina, che è uno sciroppo per la tosse che si compra normalmente in farmacia. I farmacisti lo vendevano addirittura senza ricetta prima, ma con una ricetta anche facile da utilizzare si compra in farmacia. E questi due ragazzini sono morti nel sonno dopo aver mixato la codeina dello sciroppo per la tosse con pare il metadone che era stato ceduto loro da un tossico dipendente. Ed è un allarme quello che viene lanciato dalla magistratura di Terni, che sta seguendo questo caso, e preoccupata insieme alle forze dell'ordine per la facilità con la quale ragazzini, ripeto, 15 e 16 anni hanno accesso a queste droghe che vengono considerate innocue e che invece non è la prima volta che fanno vittime. Ricordo con le stesse identiche modalità la morte di due ragazzi belgi in vacanza col padre a Firenze erano sì. Andati a comprarsi dei farmaci e morirono in hotel qualche mese fa. È un tema che secondo me merita grande attenzione da parte delle famiglie che spesso non riconoscono, non sanno perché i loro figli hanno questa boccetta di sciroppo della tosse in casa. Ecco perché è la droga dei trapper. Da questo evento veramente molto molto triste, e penso alle famiglie che in questo momento stanno vivendo un enorme dolore, invece andiamo a quella che vi dicevo essere la prima pagina del Daily Telegraph, perché per la rubrica Tutto il mondo e paese ci riguarda. Che cosa è successo? Che cosa succede in Inghilterra? Succede che il ministro dell'economia inglese ha deciso di aiutare i ristoratori britannici, e come? Con un finanziamento piuttosto massiccio che consentirà per un mese, per il mese di agosto, di dimezzare il prezzo di una cena al ristorante, qualsiasi ristorante, dai fast food ai ristoranti più eleganti. E il ministro del tesoro britannico ha deciso di fare questo investimento di 30 miliardi addirittura di sterline per evitare che cosa? Il licenziamento di tante persone che lavorano nel mondo della ristorazione britannica. Ed è un po', cioè mantenere la loro cassa integrazione è un po' quello che sta succedendo anche in Italia, e per questo la citazione nella consueta rubrica Tutto il mondo è paese. Sta succedendo in Italia sul fronte della cassa integrazione, non sul fatto che il nostro sì. governo dia 30 miliardi ai ristoratori. Sì, preciso con l'ascoltatrice che scrive che ci scrive che i farmaci con codeina devono avere la ricetta. Sì, adesso sì, cioè sta in passato non era così, adesso i farmaci con codeina devono avere la ricetta, lo sappiamo perfettamente. Poi magari uno se li può procurare anche in altro modo, evidentemente, no? È abbastanza chiaro. Questo. E purtroppo c'è un commercio di ricette false, questo lo dico alla nostra ascoltatrice, e i ragazzini sono molto più svegli di quanto le famiglie non pensino. Allora, Dario Galli, ex viceministro dello sviluppo economico della Lega, è con noi, un membro dell'opposizione. Vogliamo tornare oggi? Beh, ieri, insomma, le dichiarazioni di Paola De Micheli qua a 24 mattina hanno fatto un discreto rumore, della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul tema della concessione di Ponte Morandi, ossia sarà gestito almeno momentaneamente, finché il concessionario è Autostrade, da Autostrade. Poi, nella serata di ieri, come le ascoltatrici gli ascoltatori sanno, è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che non era illegittimo e quindi era legittimo escludere Autostrade dalla ricostruzione del ponte. Eccoci Dario Galli, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci siamo. Buongiorno, buongiorno Galli. Senta, dal Ministero dei Trasporti dicono che affidare il ponte di Genova alla società Autostrade, che ha ancora la concessione, ce l'ha detto ieri la ministra De Micheli, era l'unica strada per sbloccare la situazione. Lei la pensa così? Diciamo che sul ponte si sta consumando veramente un altro degli psicodrammi a cui ci sta abituando questo governo. Da una parte un plauso comunque da un punto di vista più tecnico e dell'impegno personale a tutti quelli che hanno collaborato, dai commissari straordinari a tutte le maestranze che hanno fisicamente realizzato il ponte, perché comunque non dico un mezzo miracolo ma quasi, aver comunque realizzato in 12 mesi in sostanza un'opera di quella portata è stata veramente una dimostrazione di grande capacità tecnico-industriale del nostro paese, che è forse la cosa più importante che ci è rimasta e che non va assolutamente dimenticata. Per quanto riguarda invece quello che mi ha chiesto, come dicevo all'inizio, siamo veramente alla solita farsa. Abbiamo un ministro, quindi non l'ultima arrivata in questo caso, che dice in sostanza il ponte sarà comunque affidato alla società Autostrade. Dopo qualche ora esponenti, come dire, di alto livello del Movimento 5 Stelle che dicono non se ne parla neanche, e poi esce Conte che dice vabbè, adesso aspettiamo un attimo che ne parliamo. Questo è in riassunto proprio l'immagine plastica di quello che è l'azione di governo di questi mesi, cioè in sostanza tutto è il contrario di tutto, perché su molte cose proprio le posizioni non amministrative, proprio ideologiche, ancor prima che politiche, sono comunque estremamente distanti, ed è una continua rincorsa al compromesso. Sì, Galli, noi siamo stati chiarissimi, sì, dall'inizio, per più di 5 secondi, sì, cioè il concetto è che bisognava dividere le responsabilità di chi effettivamente ne aveva dal resto della società. Non si esclude una società perché l'amministratore ha sbagliato, poi il geometra che asfalta la strada o chi lavora al casello cosa c'entra con l'amministratore, per cui si doveva avere un atteggiamento più pragmatico, diciamo pure di maggior conoscenza dei passaggi amministrativi all'inizio, ma a due anni dal crollo del ponte. Scusi, diciamo, Galli. La manutenzione delle autostrade è stata riconosciuta carente dallo stesso ministro delle infrastrutture, tant'è vero che le autostrade italiane sono oggetto di lavori in corso che stanno creando in Liguria e non solo molti problemi. Quindi lei non pensa che invece in questi decenni c'è stata, diciamo, una colpevole disattenzione da parte dei governi che si sono succeduti, che non hanno chiesto, non hanno messo sotto una lente di ingrandimento i lavori di manutenzione, se venivano fatti, non venivano fatti? No, lei questo non lo vede? No, questo sì, no, sono assolutamente d'accordo con lei, questa è una delle responsabilità, intanto perché proprio da un punto di vista, tra virgolette, contrattuale, anche se ovviamente gli obblighi, come dire, fisici, pratici di lavoro erano della società che aveva in gestione, che ha in gestione le autostrade. Dall'altra parte però c'erano dei passaggi chiari da parte degli organi del Ministero, quantomeno di controllo di queste opere. Ma poi, voglio dire, basta avere un minimo di idea di come funziona un'azienda, le metto lì i numeri tondi tanto per farsi capire: una società che ha 4 miliardi di fatturato e quasi 2 miliardi di utile, di cui almeno di EBITDA prima delle tasse, di cui quasi un miliardo va sotto forma di tasse allo Stato, è evidente che c'è qualcosa che non quadra. Quindi o ci sono i pedaggi troppo alti e come governo devi intervenire per ridurli, oppure se i pedaggi sono giusti è evidente che se su 4 miliardi riesci ad avanzarne 2, quindi ne spendi solo poco più di 2, è evidente che da qualche parte stai facendo dei risparmi assolutamente fuori misura. Sì. In questo caso evidentemente le manutenzioni erano adeguate, però bastava guardare i macro numeri del bilancio della società. Ascolti Galli, abbiamo parlato dei 2 anni trascorsi dal crollo di Ponte Morandi, però in uno di questi 2 anni al governo c'eravate anche voi con il Movimento 5 Stelle, quindi questa inazione sulla decisione definitiva in merito alla concessione di autostrade è una responsabilità che si portano appresso, mi pare, i 3 principali partiti rappresentati in Parlamento. Sì, però siccome, come vede anche in queste ore, in questi giorni, poi ci sono, come dire, le responsabilità, o meglio, la capacità di intervenire è soprattutto dei singoli ministeri. Io ricordo che all'inizio, quando ci furono le uscite proprio iconoclaste contro il discorso città autostrade, la Lega ha sempre tenuto una posizione ragionevole, come dire, sicuramente ci sono delle responsabilità, altrimenti il ponte non sarebbe crollato. Però un conto è sparare nel mucchio ad alto zero, ottenendo assolutamente nessun risultato, oppure avere la capacità di intervenire dove ci sono delle responsabilità. E per quanto riguarda i ministeri, adesso non vorrei girare il coltello nella piaga, mi ricordo che al MISE c'era comunque Di Maio 5 Stelle, dall'altra parte c'era addirittura, e sottolineo addirittura, Toninelli, sempre del 5 Stelle, quindi voglio dire. Sì, però i vice erano vostri, cioè uno era lei da una parte e Rixi dall'altra. Certo, ma vice con deleghe totalmente diverse e senza sostanzialmente voce in capitolo, nel senso che dove avevamo qualche possibilità di intervenire, l'abbiamo detto, non è l'argomento di oggi, ma uno su tutti, il decreto dignità, quello stesso, allo stesso ministro Di Maio dall'inizio ha detto che stavamo facendo una stupidaggine enorme nell'aumentare il costo del tempo determinato, però ovviamente non ci ha assolutamente voluto sentire, poi le cose sono andate come sono andate. Quindi lei dice che non aveva la possibilità di incidere? Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, mi pare. Però, se ricordate bene, la partita autostrada è stata gestita direttamente dai ministeri gestiti dal Movimento 5 Stelle. Con questo non voglio dire che chi comunque è al governo, ma difatti le cose che dovevamo dire le abbiamo dette, ed erano quelle che ho detto all'inizio, cioè non si spara a zero ottenendo come risultato nulla. Era più logico andare a individuare le responsabilità in maniera precisa, eventualmente far decadere gli amministratori, mettere dei commissari, cioè di cose da fare ce ne sarebbero state tantissime, che non dire tiriamo via tutto, col risultato che 2 anni dopo non solo la società è ancora lì al suo posto, ma gli si sta affidando il ponte da una parte e dall'altra si sta allungando il tempo di gestione degli aeroporti di Roma. Quindi un'altra occasione in cui il Movimento 5 Stelle dice ai suoi elettori una cosa e nell'azione di governo fa l'esatto contrario. A proposito degli aeroporti, ma lei condivide, diciamo, quella che è stata una proposta, una decisione di Italia Viva di prolungare la concessione per gli aeroporti? E una proposta di Italia Viva che è stata poi accolta. Hanno fatto bene? No, diciamo che in questo momento, essendo le concessioni ancora lunghe, la necessità di ampliare ulteriormente fino al 2046, se non sbaglio. Esatto, no? Nessuno la sentiva. È vero che siamo in un momento particolare, ovviamente in base all'emergenza sanitaria, al momento almeno abbastanza sotto controllo, ma è evidente che se c'è una questione che riguarda questi mesi, per cui una sostituzione in corsa di qualunque cosa in un momento così difficile sicuramente può prevedere ragionevolmente una proroga di 6 mesi, 1 anno, 2 anni, ma prolungare di qualche anno una roba che finisce negli anni 40 in questo momento è totalmente fuori luogo. E questo è il punto sulle concessioni degli aeroporti. Mi scusi Galli, non ho capito bene qual è a questo punto la posizione della Lega, cioè voi siete per cosa? Per lasciare la concessione ad autostrade? Ma il concetto è molto semplice. Allora, intanto si deve chiudere la partita sulle responsabilità, che mi pare di capire sta andando al di là veramente di ogni ragionevole tempo necessario. Dall'altra parte è evidente che la gestione delle autostrade in questi anni, proprio per i numeri che dicevo prima banalmente, è stata assolutamente inadeguata, e quindi o da parte della società Autostrade, una volta individuati i responsabili e sostituiti i responsabili, fanno un piano industriale dove fanno vedere come dire, che con i soldi che hanno a disposizione, con i pedaggi, con le altre entrate, comunque fanno un piano di recupero del tempo perduto per quanto riguarda le manutenzioni adeguati, oppure, anche se sono cose ovviamente complicate e difficili, per manifesta inadempienza a questo punto si toglie la concessione in anticipo e si rifà una gara nuova. Quindi a fronte di presentazione, Galli, mi scusi, a fronte di presentazione di un piano industriale preciso del quale verificare poi il rispetto, siete favorevoli a lasciare la concessione ad Autostrade? No, non siamo non mi faccio dire cose che non ho detto. Ha detto le due opzioni, cioè se loro presentano un piano. Essere favorevoli indica, come dire, una presa di posizione di campo, cioè per essere chiari, chi è con i Benetton, chi è contro i Benetton. Noi non siamo né per né contro nessuno. C'è di mezzo un bene pubblico che non ha concorrenza, perché l'autostrada è lì dov'è, non è che sto mettendo, per dire, in concorrenza tra vari soggetti un bene che può essere fungibile da una parte o dall'altra. Quindi chi si porta a casa le autostrade si porta a casa il monopolio di quel settore economico. È evidente che è una situazione abbastanza anomala, però le situazioni monopolistiche è quella. In cambio di quello è evidente che ci deve essere un'assoluta trasparenza di comportamento, ma soprattutto un'adeguata, come dire, indicazione di come quei soldi che vengono prelevati ai cittadini vengono reinvestiti con una parte di guadagno che deve essere veramente il giusto guadagno. Vado giù brutale, Galli, mi sembra che la questione sia radioattiva. Mi sembra la questione sia radioattiva e nessuno ha il coraggio di dire: beh, si potrebbe anche lasciare la concessione ad Autostrade. No, ma non è quello il problema. Mi pare che ci siano delle condizioni, no? Intanto un abbassamento dei pedaggi. Il concetto è questo: se ci sono delle responsabilità veramente oggettive e dopo due anni si dovrebbero essere state indicate comunque, voglio dire, la magistratura, la magistratura le ha indicate, eh? La magistratura le ha non indicate, ci sono sentenze però, condotta. Maria, sì, però ci sono già delle indicazioni. Dunque le chiedo, la trattativa in corso prevede anche una riduzione della presenza di ASPI, una riduzione delle tariffe e evidentemente su questa trattativa non c'è stato finora un accordo. La sentenza della Corte Costituzionale, secondo lei, potrebbe essere una pressione aggiuntiva per arrivare a un accordo? Ma io, pur essendo esperto della materia, quello che capisco dalla sentenza è che in sostanza hanno dato ragione sul fatto che fosse legittimo non affidare Autostrade la ricostruzione del ponte. Quindi questo è il fatto specifico. Quello che si legge dietro il fatto specifico è, come aver detto, la società Autostrade, come dire, non dico che non sia competente per materia, ma sicuramente si è dimostrata inadeguata. E quindi già un primo giudizio negativo sulla gestione precedente. E questa, diciamo, è la fase strettamente, proprio legale, tra virgolette. Dopodiché riprendo quello che dicevo prima. Questo governo, visto che sono passati due anni, c'è stato il tempo per farlo, ha richiesto alla società una dettagliata giustificazione del fatto che per anni ha avuto quasi il 50% di utile. Perché questo è il nocciolo della questione. O c'erano i pedaggi esageratamente elevati, oppure a fronte di pedaggi giusti non è stata fatta manutenzione. Allora se per 10 anni non è fatto manutenzione, con tutti i governi, elementi per togliere Galli, la concessione. Con tutti i governi questo è successo, eh? Quando c'era il governo centrodestra, quando c'era il centrosinistra. Una spiegazione non generalizziamo, perché sennò diciamo sempre i 20 anni. Però dobbiamo chiudere, purtroppo. Negli ultimi 11 anni, per dire, la Lega è stato al governo un anno, 14 mesi, il centro-sinistra 9 anni, quindi voglio dire, mi sembra che le responsabilità non siano esattamente... Non sono distribuibili, dice lei, esattamente nella stessa dimensione. Grazie Dario Galli, ex vice ministro dello sviluppo economico della Lega. Una pausa, ci ritroviamo tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it mattino. Parzialmente collegato a tutto il tema anche delle autostrade, se volete, più in generale dei lavori pubblici, delle infrastrutture, c'è il famoso decreto semplificazioni. A breve dovremmo avere, entro pochi giorni, questo testo definitivo, e c'è tutta una parte consistente dedicata al digitale. Paola Pisano, ministra dell'innovazione, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno Ministro. Allora, nel rapporto formulato dalla task force guidata da Vittorio Colao, la digitalizzazione del paese è uno dei punti centrali insieme alle infrastrutture, alla formazione, alla ricerca. Però se io devo dedurre, no, quanto siamo pronti come Italia, se lo devo dedurre da quanti italiani hanno scaricato l'app Immuni, dovrei dire che c'è ancora tanta strada da fare. Le chiedo di dirci sinteticamente come pensate di far marciare la digitalizzazione del paese. E secondo lei perché gli italiani non hanno scaricato l'app Immuni, mentre invece in Germania questa app che consente il tracciamento è stata scaricata da molti cittadini? Allora, buongiorno a tutti. Come vogliamo far marciare la digitalizzazione all'interno della pubblica amministrazione? Sviluppando servizi digitali semplici e a portata di cittadino. Oggi il cittadino utilizza principalmente lo smartphone per fare tutte le sue attività digitali, quindi anche i servizi della pubblica amministrazione devono utilizzare questo strumento tecnologico per arrivare al cittadino. Quindi prima cosa bisogna guardare quali sono le abitudini del cittadino e poi sviluppare servizi che siano facili da utilizzare. Per questo noi abbiamo inserito all'interno del decreto semplificazione, digitalizzazione e innovazione sia l'identità digitale, che sono credenziali uniche per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione, sia un'applicazione che si chiama Io, all'interno della quale stiamo facendo confluire tutti i servizi digitali, così il cittadino non dovrà andare a cercare i servizi in giro per il web nei vari siti, ma potrà trovare tutti i servizi a lui utili all'interno di un'unica applicazione. Ci fa un esempio? Ci fa un esempio, per favore, così rendiamo più evidente la cosa. Iscrivere i bambini al nido piuttosto che pagare le mense scolastiche, piuttosto che il bonus di cui si parla in questo periodo, il bonus vacanze, il cittadino utilizzando Io può richiedere il bonus vacanze in circa un minuto, per cui attraverso questa applicazione non solo pagamenti ma anche bonus per il cittadino e anche comunicazione digitale tra la pubblica amministrazione, il cittadino e viceversa. Quindi Ministra, questo è chiaro, e qua siamo però soprattutto dal lato della domanda, no? Che è quella dei cittadini di avere più applicazioni digitali. Uno smartphone ce l'abbiamo quasi tutti, se anche una percentuale non particolarmente alta dei cittadini, mettiamo un 30%, scarica quest'app e inizia a utilizzare i servizi digitali, è comunque uno sveltimento della burocrazia importante. E però c'è l'altro lato, il lato dell'offerta, il lato della pubblica amministrazione, cioè ci sono molte pubbliche amministrazioni che in realtà non sono pronte ad una svolta di questo tipo. La pubblica amministrazione va accompagnata verso questa svolta, così come qualunque altro soggetto che si avvicina alla digitalizzazione, per cui da un lato ci devono essere regole chiare e forti per tutte le pubbliche amministrazioni locali e centrali, in modo che la pubblica amministrazione sappia dove deve andare se vuole digitalizzare i suoi servizi. Dall'altro dobbiamo accompagnarla, per questo noi stiamo creando un gruppo di lavoro che aiuterà le pubbliche amministrazioni a digitalizzarsi. E dall'altro, all'interno di questo decreto, abbiamo previsto anche un articolo che riguarda il codice tecnologico per le pubbliche amministrazioni, all'interno del quale diamo l'opportunità alle pubbliche amministrazioni di assumere degli esperti con determinate caratteristiche. Quindi da un lato ci siamo noi come Dipartimento di Innovazione che aiutiamo le pubbliche amministrazioni a digitalizzarsi, dall'altro ogni pubblica amministrazione può prendere degli esperti che internamente aiuteranno il cambiamento e la trasformazione digitale. Per fare questo però, Ministra, ci vogliono quattrini, ci vogliono, sì? Ci vogliono i mezzi, intendo semplicemente i computer, i tablet e via dicendo, i collegamenti, ci vuole la formazione per i dipendenti pubblici. Abbiamo il dato dell'altro giorno per il quale abbiamo 500.000 dipendenti della pubblica amministrazione che sono over 62. La formazione di queste persone a cambiare completamente il registro di lavoro è un costo notevole. Sicuramente ci vogliono soldi, infatti noi abbiamo un fondo innovazione di circa 70 milioni di euro per iniziare la trasformazione digitale, dall'altro inserire persone all'interno della pubblica amministrazione che hanno già le competenze per guidare progetti di digitalizzazione e di innovazione è importante. Pian piano, ovviamente attraverso la formazione, attraverso linee guida chiare, attraverso il nostro dipartimento e nuove assunzioni, ci sarà la trasformazione della pubblica amministrazione. Ministro, insisto su questo punto, vale a dire sull'efficienza della pubblica amministrazione e sulla digitalizzazione della stessa, perché è anche la chiave, non soltanto per ottenere i fondi del Recovery Fund, è una delle richieste che l'Europa ci pone, ma è anche con tutta evidenza la chiave per rimettere in moto le imprese. Cito quello che in un convegno, lo riferisce il Messaggero oggi, ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori, Gabriele Buia, il quale ha detto: per noi lo smart working, per il nostro settore, ha peggiorato il rapporto con la pubblica amministrazione, perché non è automatico che la digitalizzazione renda più efficiente la pubblica amministrazione. Io so che lei non è il ministro della funzione pubblica, però in che modo il vostro ministero può aiutare a rendere, cioè a misurare l'efficienza di chi lavora nella pubblica amministrazione e di chi lo farà in modo digitale? Perché questo non è chiaro. Chi misura che cosa? Come si fa a capire se le persone che vengono formate poi saranno in grado di essere davvero, di portare a casa il risultato, insomma? Allora, questo è un tema principalmente di funzione pubblica. È vero che lo smart working non è solo, così come la digitalizzazione in generale, non è solo tecnologia, ma ci vuole anche una riorganizzazione della macchina. Quindi quando si lavora in smart working bisogna cambiare l'approccio del lavoro e lavorare più per obiettivi e non per attività, come è abituata a lavorare la pubblica amministrazione. Per cui dietro ogni tecnologia c'è poi un cambio organizzativo, che è il cambio che noi chiamiamo culturale, che è il cambio più difficile da fare, per cui è un cambio che va di nuovo accompagnato e misurato. Sì, diciamo che normalmente la misurazione all'interno della pubblica amministrazione, soprattutto nei servizi, avviene per numero di pratiche, numero di bonus che vengono erogati, per cui queste sono le misurazioni che noi normalmente facciamo per vedere se una tecnologia viene utilizzata e se viene erogata correttamente. Molti passaggi col digitale saranno passaggi automatici, in modo tale che la pubblica amministrazione si concentri poi su quella che è la sua attività core, quindi riuscire a capire quali sono i bisogni del cittadino nelle amministrazioni locali e accompagnarlo verso i servizi digitali o anche verso i servizi, diciamo, reali, analogici. Per tutti coloro che non utilizzeranno il digitale rimarrà questo canale, e dall'altro per le amministrazioni centrali e locali guardare le policy e guardare la strategia del paese. Sì. Solo una piccola nota all'ascoltatore che dice: sono basta con questa storia degli over 60 che non sono capaci digitalmente. Per carità, no, ma ce ne sono di bravissimi, non sto dicendo questo, sto dicendo che una persona che per 40 anni ha fatto il lavoro in un certo modo va formata, se deve fare il suo lavoro, in una maniera diversa rispetto a come la faceva prima, molto semplicemente, che sia digitale o sia un altro modo di lavorare. C'è una questione di infrastrutture, Ministra, perché possiamo parlare all'infinito della, appunto, della formazione, dei mezzi che diamo in mano ai dipendenti pubblici, del fatto che noi useremo l'app Io, e poi però se la connessione non regge tutto questo serve a poco. C'è un problema di questo tipo, un problema di connessioni molto semplicemente di banda larga. Se mi permette di precisare solo una cosa rispetto a quello che diceva l'ascoltatore, le competenze si formano anche attraverso il lavoro sui servizi digitali e l'erogazione dei servizi digitali. Digital divide si diminuisce se diamo servizi digitali al cittadino facili da utilizzare, e così i dipendenti pubblici miglioreranno le loro competenze man mano che faranno progetti digitali. La formazione nella tecnologia è importante, ma è importante soprattutto il fare, è la cosa più importante. Per quanto riguarda la connettività è fondamentale. Noi oggi all'interno del nostro paese abbiamo un progetto ambizioso che è la banda ultra larga. È importante che la connettività sia in tutta Italia e non a macchia di leopardo come in questo momento, che le tecnologie vengano un po' utilizzate insieme, quindi non solo banda ultra larga, ma laddove è difficile mettere la banda, utilizzare anche altre tecnologie per portare la connettività, che deve essere una connettività stabile. Il 5G, Ministra? È vero che state pensando di rivedere l'accordo con il colosso cinese Huawei, così come è stato rivisto in Gran Bretagna, dove hanno spostato la decisione al 2026? È così? Allora, noi in questo momento ci stiamo concentrando su riuscire a portare la connettività all'interno del nostro paese. Il 5G è una tecnologia importante perché permette di abilitare molti servizi innovativi, il che significa che permette anche di aumentare la competitività del nostro paese. L'obiettivo per noi è sempre la sicurezza delle nostre infrastrutture, la sicurezza dei dati dei nostri cittadini, quindi noi ci muoviamo rispettando dei principi che sono dei principi fondamentali all'interno del nostro Stato, e che in generale fanno sì che uno Stato possa utilizzare delle tecnologie innovative, ma comunque riuscire a gestirle nel modo corretto per la sicurezza del Paese e la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi in base a queste caratteristiche poi si scelgono gli operatori. Grazie a Paola Pisano, ministra dell'innovazione. Dobbiamo chiudere qua, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito. Buona giornata, cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20 naturalmente. A domani per l'ultimo giorno della settimana. Sì, per fortuna. Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Turli in assistenza in redazione, Margherita Ina e Francesco Ceraffo, i nostri autori. Ci risentiamo domani con Maria Latella alle 8:20 e noi invece alle 6:30. Ciao.